24, i gialli della storia. Mio padre non era un criminale. È diventato famoso per aver salvato Benito Mussolini. Mi rivolsi a lui dicendo: Duce, il Führer mi ha mandato qui per liberarvi. Per Skorzeny quell'operazione era importante come l'aria e aveva dato la fama a cui ambiva. Cercavamo un ex nazista che ci desse informazioni sulle persone che stavano lavorando al Cairo agli armamenti e venne fuori il nome di Otto Skorzeny. Per alcuni è stato il miglior amico di Hitler, il re dei sabotaggi, il terrorista tedesco numero uno, l'asso delle operazioni segrete. Per altri invece è stato un traditore, una spia che faceva il doppio gioco, che ha lavorato non solo per i tedeschi, ma guerra finita, anche per il Mossad, il servizio segreto israeliano. Per altri ancora è stato un visionario, uno spudorato bugiardo che si è inventato di sana pianta una biografia eroica. Ma chi è stato veramente Otto Skorzeny? Perché tutti i servizi segreti del mondo lo volevano arruolare? Noi oggi a Mix 24 proveremo a raccontare la sua storia con la collaborazione degli storici Alexander Kolpakidi, Maxim Tovarek e Mikhail Kainfetz. Luglio 1943. Il tenente colonnello delle SS Otto Skorzeny viene convocato al quartier generale di Adolf Hitler alla Tana del Lupo. È una convocazione a sorpresa che giunge inaspettata. Nella Prussia orientale Skorzeny attende il Führer insieme ad altri 5 ufficiali, 3 tenenti colonnelli e 2 maggiori. Otto Skorzeny è il più basso in grado tra i presenti. È però a lui che Hitler affida il comando di un'operazione segreta, nome in codice Eiche, Quercia. Obiettivo della missione: liberare e portare in salvo Benito Mussolini, l'ex dittatore italiano deposto e arrestato dal re d'Italia Vittorio Emanuele III. Il gruppo di sabotatori di Skorzeny è affidato al comando di Kurt Student, un generale della Luftwaffe. Ai primi di agosto del 1943 il colonnello Skorzeny e Student volano in Italia travestiti da ufficiali dell'aviazione americana. La prima fase dell'operazione Quercia è scoprire innanzitutto il luogo esatto in cui Mussolini viene tenuto prigioniero. Un compito molto difficile, dato che ovviamente si tratta di una località top secret. Mussolini, inoltre, sempre per motivi di sicurezza, viene regolarmente trasferito da un luogo all'altro. Dopo 2 mesi di inutili tentativi, Otto Skorzeny, consapevole che il fallimento dell'operazione significherebbe anche la fine della sua lunga carriera, decide di tentare il tutto per tutto. 20 anni dopo scriverà nelle sue memorie: il mio piano si basava su una constatazione, e cioè che gli italiani amano scommettere. Un tenente del nostro comando, travestito da marinaio tedesco, venne mandato in un'osteria con il compito di ascoltare le conversazioni degli avventori. Non appena avesse sentito qualcuno parlare del Duce, si sarebbe intromesso nella conversazione, affermando di sapere che Mussolini era gravemente ammalato. Una tale affermazione avrebbe sollevato delle proteste e sarebbe stato facile arrivare alla scommessa. Il piano di Otto Skorzeny ha successo. Un marinaio italiano un po' alticcio accetta la scommessa. Per non perderla, indica al marinaio tedesco l'albergo, la stanza e perfino la terrazza in cui il Duce viene portato ogni giorno per una breve passeggiata all'aperto. L'attacco a Campo Imperatore, la località dove sorge l'albergo in cui è tenuto prigioniero Mussolini, è fissato per il 13 settembre 1943. L'unico modo per raggiungere quella località ad alta quota è ricorrere ai paracadutisti. Skorzeny e Student decidono di usare gli alianti militari da cui lanciare i paracadutisti sul piccolo pianoro che si apre sulla vetta del Gran Sasso, proprio accanto all'albergo del Duce. Alle 13 del 13 settembre gli alianti decollano, ciascuno con 9 combattenti a bordo. Skorzeny è sul terzo aliante. Alle 14.05, 8 alianti DFS-230, invece dei 10 programmati, atterrano sulla pianura antistante all'albergo di Campo Imperatore. Al momento dell'imbarco, Student ha dato precise disposizioni ai piloti, ordinando loro di non atterrare in picchiata. Un atterraggio su una montagna avrebbe potuto provocare perdite inutili. Durante il volo, tuttavia, Skorzeny ordina proprio di atterrare in picchiata. 6 alianti riescono ad atterrare indenni sulla corta striscia di terra, mentre gli altri 2 si schiantano al suolo, provocando la morte dei piloti e dei paracadutisti. Così Skorzeny descrive l'azione che segue. Da quel momento tutto si è svolto con velocità fulminea. Imbracciando una mitragliatrice, mi sono messo a correre in direzione dell'albergo. Dietro di me seguivano il tenente Mayer e 7 uomini del mio distaccamento di SS. Arrivato alla fine del muro di cinta, mi sono trovato davanti al muro della terrazza. Mi sono arrampicato sulle spalle del sergente Himmel e con un balzo mi sono trovato sulla terrazza. Davanti a me c'era l'albergo. Mentre correvo, attraverso i vetri di una finestra, ho riconosciuto l'inconfondibile profilo di Mussolini. L'operazione procede senza che da entrambe le parti venga sparato un solo colpo. I carabinieri di guardia non oppongono resistenza. Aiutano anzi i tedeschi a ripulire un altro tratto di terreno per facilitare il decollo degli alianti. Terminata l'operazione, Skorzeny si imbarcò sul suo Storch e insieme al pilota Gerlach e a Mussolini, lasciando però a terra i paracadutisti, che furono così costretti a raggiungere il fronte via terra, procedendo per 150 chilometri attraverso le retrovie italiane. In pratica Skorzeny lasciò il comando e se ne andò via con Mussolini. Così Skorzeny descrive l'incontro con Mussolini nel suo libro Missioni segrete. Mi rivolsi a lui dicendo: «Duce, il Führer mi ha mandato qui per liberarvi». Mussolini era molto agitato, ma mi abbracciò e mi disse: «Sapevo che il mio amico Adolf Hitler non mi avrebbe lasciato solo». Per Skorzeny è un trionfo degno di Napoleone. Un semplice ufficiale decide il destino di due dittatori e cambia il corso della Seconda Guerra Mondiale. Gli storici sono unanimi. Senza questa operazione e senza il ritorno di Mussolini al fianco di Hitler, la Seconda Guerra Mondiale sarebbe finita un anno prima. Ma a Skorzeny aver liberato Mussolini non basta. Sostenendo di obbedire ad un esplicito ordine di Hitler, insiste per salire sull'aereo insieme al Duce, a costo di mettere a rischio la sicurezza del velivolo per via del peso eccessivo. Per lui è una ribalta troppo ghiotta. A sole 24 ore dall'inizio dell'operazione Quercia, Mussolini è a Berlino al cospetto di Hitler e la sua liberazione entrerà nei libri di testo sul sabotaggio militare. Anche i libri di Skorzeny diventano manuali dell'impegno e la devozione alla causa nazista. Quando ormai tutto è noto sui crimini contro l'umanità commessi dai tedeschi, all'irriducibile Otto Skorzeny piacerebbe ancora trovarsi al servizio del Terzo Reich. Ma Skorzeny è un uomo pieno di sorprese. Alcuni anni dopo viene alla luce un episodio che ha dell'incredibile. Otto Skorzeny, il grande sabotatore del Terzo Reich, ha lavorato per il Mossad, il servizio segreto israeliano. Ad occuparsi dell'operazione di reclutamento di Otto Skorzeny è Rafi Eitan. Nato in un kibbutz, grande esperienza del mondo dell'intelligence, Eitan è reduce dallo spettacolare trionfo del rapimento di Adolf Eichmann in Argentina. Cercavamo un uomo, un ex nazista, all'epoca li chiamavamo così, qualcuno che ci desse informazioni sulle persone che stavano lavorando al Cairo agli armamenti, e venne fuori il nome di Otto Skorzeny. Sapevamo benissimo chi fosse. Fin dal primo incontro, Skorzeny accetta la proposta del reclutatore del Mossad. Con Rafi Eitan decide che i dettagli verranno concordati in seguito. Sono stato a casa di Skorzeny una sola volta. Una villa alla periferia di Madrid. Una casa molto lussuosa. Skorzeny mi ha accolto con caffè e pasticcini. E poi abbiamo discusso nel dettaglio cosa fare nell'immediato, chi avrebbe tenuto i collegamenti, come avrebbe lavorato lui e dove sarebbe andato. Come sarebbero state trasmesse le informazioni? Insomma, abbiamo avuto una conversazione di carattere professionale. Nel 1947 Skorzeny viene processato per crimini di guerra e assolto grazie a un cavillo legale. Qualcuno in realtà sostiene che l'immunità di Otto Skorzeny sia dovuta ad un intervento diretto del Mossad in suo favore. Agli israeliani e la maggior parte degli esperti tedeschi che lavoravano per il governo egiziano non interessava, si trattava solo di burocrati. Non è solo l'intelligence israeliana ad avere l'idea di reclutare un esperto così abile come Skorzeny. Skorzeny era certamente un uomo colto e molto ben preparato. Con le operazioni speciali condotte durante la Seconda Guerra Mondiale aveva acquisito una grande esperienza. E nel dopoguerra erano molti i servizi segreti che avrebbero voluto servirsene. Per quale motivo? Perché nel frattempo era iniziata la Guerra Fredda e l'Unione Sovietica e gli Stati Uniti, un tempo alleati, si scrutavano da lontano e con sospetto. Dopo la guerra, pare che Skorzeny abbia lavorato con molte organizzazioni terroristiche, ma non esistono documenti che certifichino questa collaborazione. Ma chi era Otto Skorzeny? Com'è nata la sua fama? Figlio di un meccanico, Otto Skorzeny nasce a Vienna il 12 giugno 1908. La sua famiglia non è ricca e quando un giorno Otto chiede a suo padre perché in casa loro non si mangi mai il pane imburrato, il padre gli risponde che crescendo capirà quanto sia stata importante per lui la mancanza di lussi. Laureatosi al Politecnico di Vienna, Skorzeny trova lavoro in un'azienda produttrice di intelaiature e scaffalature, ma poi si crea un'attività indipendente. Poco prima della guerra ottiene il brevetto di pilota amatoriale. Dopo il 1939, tuttavia, non riesce a entrare nella Luftwaffe. A poco più di 30 anni ha superato i limiti d'età. Skorzeny aveva una passione per la tecnologia. Nelle sue missioni speciali usava mezzi meccanici come aerei, carri armati. A Skorzeny piace molto la guerra ed è dalle arti militari che apprende e sviluppa la maggior parte delle sue capacità. Allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale viene arruolato come soldato semplice e distaccato all'ufficio matricole per essere addestrato come dragamine. A 31 anni ha inizio la carriera del futuro superagente nazista. Presta servizio come ingegnere meccanico nelle retrovie, in un battaglione di riserva della divisione Leibstandarte SS Adolf Hitler. Viene anche addestrato alla guida di mezzi militari. La prima volta che si mise in mostra fu nel 40, durante la preparazione dell'operazione Leone Marino, che prevedeva lo sbarco dei tedeschi in Gran Bretagna. Skorzeny lavorava in Francia come ingegnere meccanico delle SS. Non partecipava ai combattimenti, ma ideò una rampa per caricare i carri armati sulle navi da trasporto. Fu lì che i vertici del comando notarono che quell'ufficiale era un tipo perspicace, ma non era ancora giunto il momento in cui la sua carriera militare avrebbe fatto il grande salto. Nel giugno 1941, secondo quanto racconta Skorzeny nelle sue memorie, la sua divisione delle SS viene trasferita in Polonia, al confine con l'Unione Sovietica, a sud di Brest-Litovsk. Ma ad attaccare la fortezza di Brest sono gli uomini della 45esima divisione di fanteria della Wehrmacht. Il vero compito del corpo di cui fa parte la divisione di Skorzeny è seguire il secondo scaglione delle forze corazzate, procedendo in direzione nord rispetto a Brest. Queste discrepanze hanno indotto molti storici militari a sospettare che Otto Skorzeny abbia voluto raccontare un'altra verità. Ho sempre considerato Skorzeny un personaggio costruito dalla storiografia, la cui notorietà è dovuta solo all'aver partecipato, apparentemente per la fiducia che Hitler riponeva in lui, ad azioni riguardanti importanti personalità politiche dell'epoca come Mussolini, Von Orti e Vichy. È per questo che è passato alla storia. Sul fronte orientale, Skorzeny ha l'opportunità di far mostra delle sue capacità. Nell'autunno 1941 è a Mosca. Qui viene ferito alla schiena da alcune schegge, si guadagna la croce di ferro per aver ristabilito le comunicazioni interrottesi durante la battaglia e viene anche colpito da una grave forma di dissenteria. Viene rimandato nelle retrovie, un episodio di cui si dirà molto addolorato. La carriera militare di Skorzeny decolla grazie ad un compagno di studi e amico di vecchia data. Ernst Kaltenbrunner, suo connazionale amico, decide di aiutarlo. Skorzeny e Kaltenbrunner sono amici dagli anni dell'università. Nel 1930 si iscrivono al Partito Nazionalsocialista, partecipano al colpo di Stato del 1934 e all'organizzazione della Notte dei Cristalli del novembre 1938 a Vienna. Nel 1944 Otto Skorzeny riceve i massimi poteri per la creazione e il comando di ingenti forze speciali. Tutte le forze speciali delle SS si trovano ora sotto il suo comando. Per l'addestramento delle sue unità gli viene assegnato il campo di addestramento speciale di Oranienburg. Durante l'addestramento i sabotatori hanno la possibilità di fare pratica direttamente sugli esseri umani, gli internati del vicino campo di concentramento di Sachsenhausen. Finalmente, sotto il comando di Skorzeny, le unità speciali delle SS svolgono un'intensa attività di sabotaggio su tutti i fronti di guerra, dalla Francia ai Balcani e soprattutto sul fronte orientale. Oltre ai tedeschi, nelle unità di Skorzeny operavano anche un gran numero di collaborazionisti olandesi, francesi, croati, molti ucraini, russi e altri provenienti dalle varie repubbliche baltiche. In alcuni casi disponevano di unità già costituite. Insomma, coesistevano varie situazioni. Nel 1944 Skorzeny ritorna sul fronte orientale per una delle sue missioni ed è proprio qui che subisce il suo primo grande insuccesso. I suoi superiori della Wehrmacht gli hanno ordinato di andare in soccorso di un ingente distaccamento militare rimasto intrappolato nelle foreste della Bielorussia che intendeva sfondare le linee nemiche per ricongiungersi con il grosso delle truppe tedesche. Guidato dal tenente colonnello Schernhorn, ha disperatamente bisogno di armi, munizioni, cibarie e medicinali. Molti uomini sono feriti. Con l'approvazione di Stalin, il controspionaggio sovietico simula una situazione militare con l'obiettivo di spingere il nemico a inviare mezzi e risorse umane in soccorso di un suo contingente militare circondato dal nemico nelle retrovie sovietiche. Il piano dell'operazione è elaborato da due agenti di talento, Pavel Sudoplatov, capo del quarto dipartimento dell'NKVD, e dal suo assistente Naum Eitingon. In Bielorussia Avevamo inscenato la storia di un distaccamento tedesco al cui comando ci sarebbe stato il tenente colonnello Schernhorn, che avevamo reclutato in un campo di prigionieri di guerra e introdotto nella nostra intelligence. In assoluta segretezza, Eitingon, Schernhorn, tre altri agenti reclutati tra i prigionieri di guerra e alcuni uomini del gruppo operativo si recano in Bielorussia, a Berecino. Qui ha inizio via radio il gioco con l'intelligence tedesca. Il comando tedesco ha grandi progetti per l'eroico distaccamento comandato da Schernhorn. Skorzeny vuole riportare quei valorosi combattenti sulla linea del fronte per attaccare le retrovie dell'Armata Rossa. A questo scopo provvede a rifornire l'immaginario distaccamento con degli aerei da trasporto. Vengono ripetutamente lanciate decine e decine di tonnellate di vettovagliamenti e di armamenti militari. Lanciavano grandi quantità di merce, anche denaro e cibo. Grazie a questi rifornimenti tedeschi, la brigata fucilieri motorizzati dell'NKVD, per 6, forse 9 mesi, ha vissuto delle forniture lanciate dagli aerei tedeschi. Skorzeny prepara e spedisce in missione in Bielorussia 4 unità speciali di ricognizione e sabotaggio con il compito di localizzare il distaccamento di Schernhorn e portarlo in salvo. Ma le unità spariscono una dopo l'altra. Verso la metà degli anni 50, su alcuni quotidiani in Germania Est, cominciano a filtrare notizie su questa operazione. Ma Skorzeny non si accorgerà mai di essere stato raggirato dai sovietici. Continuerà a credere che Schernhorn abbia continuato a combattere nelle foreste della Bielorussia per quasi 2 anni. In un passo di missioni segrete, Otto Skorzeny scrive: i nostri operatori radio passavano la notte attaccati alle cuffie. A volte riuscivano a sentire le voci degli uomini di Schernhorn che parlavano tra di loro, altre volte sentivano i loro appelli disperati. Poi, l'8 maggio, nessuna voce, solo silenzio. Schernhorn non rispondeva più. L'operazione Cacciatore di Frodo era fallita. Quindi molte operazioni di successo, come quelle in Ungheria, qualche missione con l'esito discutibile, ma il suo vero insuccesso è quello che subisce in Jugoslavia nel tentativo di uccidere Tito. L'operazione di maggior successo dei sabotatori russi di Skorzeny ha luogo in Ungheria. La cattura del capo del governo di quel paese avviene in modo rapido e incruento. 10 anni più tardi, l'operazione sarà considerata un classico del sabotaggio militare. Verso la metà del 1944, il dittatore ungherese ammiraglio von Horthy decide di rompere l'alleanza con la Germania. La sua decisione provoca il collasso delle divisioni ungheresi che fino a quel momento hanno resistito con successo all'avanzata dell'Armata Rossa. In agosto, l'intelligence tedesca viene a sapere che von Horthy ha deciso di firmare un trattato di pace separato e segreto con l'Unione Sovietica. Hitler, informato di quanto sta accadendo, convoca immediatamente Skorzeny e gli dà l'ordine di occuparsi della situazione. Arrivato a Budapest, Skorzeny catturò subito il figlio di Horthy affinché il padre venisse a più miti consigli e lo tenne in ostaggio. E quando l'ammiraglio annunciò la resa, lo arrestò immediatamente. Implacabile nemico della Germania per tutta la durata della guerra fino alla sua fine è il popolo jugoslavo. Per evitare altre perdite, il comando tedesco decide di decapitare l'esercito popolare per la liberazione della Jugoslavia. Ancora una volta è a Otto Skorzeny, il grande sabotatore, che viene affidato il compito di assassinare il leader del popolo jugoslavo, Josip Broz Tito. Se avessimo localizzato il quartier generale di Tito e l'avessimo catturato, avremmo potuto sperare in una diminuzione della pressione della guerriglia contro le nostre posizioni. La residenza di Tito, leader del movimento antifascista jugoslavo, si trova sulle montagne in prossimità della città di Drvar, in Bosnia. Per confondere le guardie di Tito, i paracadutisti di Skorzeny indossano le uniformi di un esercito amico della Jugoslavia, quelle dell'Unione Sovietica. E sovietiche sono anche le armi che usano. Come etnicamente sovietici, sono molti degli uomini che fanno parte del comando. Ma questa volta il trucco non funziona. I fedelissimi di Tito non sono disposti ad arrendersi senza combattere e gli uomini di Tito sono molto più numerosi del manipolo di Skorzeny. Ma con la forza della disperazione, i cacciatori di Skorzeny riescono a vincere la resistenza dei partigiani jugoslavi e prendono la città di Drvar. La loro impresa però è inutile. La residenza di Tito è vuota. Le leggende che sono fiorite sul conto di Otto Skorzeny sono moltissime. Fino al 75, anno della sua morte, gli sono state attribuite azioni terroristiche e complicità che però non sono mai state confessate in nessuna testimonianza e in nessun documento. Il 15 maggio 1945 Otto Skorzeny arriva a Salisburgo e si consegna agli americani. Nel 1947 il tribunale americano di Dachau lo proscioglie dall'accusa di criminale di guerra. Skorzeny viene rimesso in libertà. Ma poco dopo viene nuovamente arrestato e trascorre circa un anno nel campo di concentramento di Dachau. Fonti sovietiche dell'epoca rivelano che nel 1948, dopo essere riuscito a sottrarsi alla detenzione nel campo dei criminali di guerra, Skorzeny, sotto il falso nome di Abel, addestra gli agenti dell'intelligence americana in speciali campi di addestramento situati nello stato della Georgia, da cui sarebbero usciti i sabotatori da inviare in Unione Sovietica. Ma non esistono documenti ufficiali che possano comprovare queste voci. Gli alleati non avevano nessuno capace di perfezionare l'addestramento dei ragazzi delle SAS, in modo da migliorare le loro capacità in combattimento. I comando non avevano esperienza, non avevano istruttori, non avevano apparecchiature speciali. Tutte cose, invece, ancora disponibili nella Germania sconfitta. Il solo a sapere e a voler condividere la sua conoscenza in cambio di garanzie sulla sua sicurezza personale e di prospettive per il futuro era Otto Skorzeny. Skorzeny venne perciò internato in un campo di prigionieri di guerra, dove rimase fino al 1948. Vi rimase in condizioni mediamente confortevoli. E proprio lì, nel campo, Skorzeny condivise con gli alleati tutto quello che sapeva. E Skorzeny sapeva molto di più di quanto non abbia potuto fare. Per chi altri ha lavorato Otto Skorzeny? Come ha potuto sfuggire alla condanna alla fine della guerra? Ha veramente progettato un attentato alla vita di Stalin? Ha davvero progettato il rapimento di Churchill? È stato lui a far fuggire i nazisti dall'Europa nel dopoguerra? È stato lui a rubare l'oro di Martin Bormann, il bottino accumulato nei campi di sterminio? Può darsi, ma non ci sono prove concrete. Quanto a lui, l'ufficiale nazista, l'agente segreto e il capo sabotatore del Terzo Reich, si è sempre espresso con grande modestia sul proprio lavoro. Ammetto che parole come spionaggio, atto terroristico e sabotaggio possano spesso impaurire o disgustare la gente comune. Ed è proprio questo che vorrei far presente, che questi servizi, anche se mascherati con parole diverse dal suono più innocente, sono esistiti ed esistono in tutti i paesi del mondo. Tutte le grandi potenze hanno un servizio di intelligence, o come lo chiamano modestamente i francesi, il deuxième bureau, il secondo ufficio. Per i gialli della storia ringrazio Francesco Anzalone e Antonella Migliaccio. Le puntate di Mix 24 si possono riascoltare sul sito www.radio24.it, nella pagina dedicata a questa trasmissione.